Sicuramente è l'inizio di una nuova fase per quanto riguarda quantomeno, diciamo, l'enunciazione di volontà da parte di Pyongyang. Intanto, in attesa dell'incontro del 9 gennaio, già il 3 gennaio c'è stato un primo contatto attraverso la famosa linea di comunicazione transfrontaliera che la Corea del Nord si è impegnata a riattivare e che quindi è stata, diciamo, prontamente, il cui invito è stato prontamente colto anche da Seoul. Quindi diciamo che è un primo segnale di disgelo, c'è già stata una comunicazione di 20 minuti, una comunicazione diciamo telefonica, quindi non diretta, non di persona, ma che insomma già testimonia di toni sicuramente più rilassati. Se e quanto questo disgelo o questa volontà insomma di normalizzazione delle relazioni intercoreane andrà avanti, lo vedremo. Già la comunità diciamo degli osservatori si divide su quanto sia credibile o no un'ipotesi di questo tipo. Tra l'altro, il luogo scelto per questo incontro è lo stesso dell'armistizio del 1953, è un dato simbolico. Diciamo che le comunicazioni transfrontaliere si sono storicamente e tradizionalmente agite attraverso quel contesto spaziale. È sempre accaduto così, ci sono delle caratteristiche proprio geografiche e politiche per cui Panmunjom, il villaggio della tregua, come viene chiamato, si trova esattamente sul confine tra le due Coree, quindi si presta, come dire, anche in termini pratici a fare da sfondo a questo tipo di eventi. E c'è sicuramente un significato politico che hai molto opportunamente ricordato, un significato anche, diciamo, storico di relazione tra le due Coree e naturalmente c'è anche una considerazione dell'opportunità geografica, diciamo, e anche della praticità che quel contesto gioca. Quindi, insomma, diciamo che un po' Panmunjom è il contesto più adatto sotto diversi punti di vista. Il presidente sudcoreano Moon, eletto da relativamente poco, ha vinto anche le elezioni. Uno dei temi era proprio quello di riprendere un dialogo con la Corea del Nord. Affinché questo possa avvenire, che ruolo possono avere gli Stati Uniti? Devono stare defilati? Cosa deve succedere? Sì, questa è l'altra faccia della medaglia del discorso inaugurale del nuovo anno di Kim Jong-un. Se si è avvertita, diciamo, in maniera anche forte e determinante l'apertura nei confronti della Corea del Sud, dall'altro lato il famoso richiamo al pulsante nucleare sempre pronto e a portata di mano sulla scrivania del leader nordcoreano, insomma, parla in altri termini delle relazioni con gli Stati Uniti. Quindi, se da un lato c'è, come dire, il tentativo di lanciare quello che è stato definito il ramoscello di ulivo verso Seoul, verso gli Stati Uniti, non pare esserci, diciamo, all'orizzonte il tentativo da nessuno degli attori in gioco, quindi né dagli Stati Uniti né dalla Corea del Nord, di una normalizzazione delle relazioni. Il presidente Moon si era impegnato in campagna elettorale affinché riprendessero colloqui e insomma si portassero avanti in maniera determinante le relazioni tra le due Coree che si erano interrotte in maniera diciamo abbastanza radicale durante la precedente amministrazione sudcoreana. Il grosso limite, diciamo, all'agibilità di questo progetto politico è sempre stato determinato dall'alleanza con gli Stati Uniti, un'alleanza che per inciso comporta anche esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti e che ha notoriamente, diciamo, irritato la Corea del Nord. L'opportunità che si apre adesso per il presidente Moon è un'opportunità vera, seria e reale di porre in essere le dichiarazioni emerse durante la campagna elettorale e anche durante, diciamo, questa prima fase della sua presidenza. Lo stesso presidente, infatti, Moon Jae-in, si è impegnato o quantomeno ha lasciato intravedere la possibilità di una moratoria delle esercitazioni congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti, e questo naturalmente è stato visto di buon occhio a Pyongyang. Ricordo peraltro che è sempre stato il tasto su cui ha battuto la politica estera cinese nei confronti della penisola coreana, cioè moratoria delle esercitazioni congiunte a cui avrebbe dovuto seguire un qualche ammorbidimento di Pyongyang rispetto al suo programma nucleare. Adesso pare ci siano gli spiragli perché questo accada, ma staremo a vedere. Naturalmente non sarà un percorso in discesa.